sabato prossimo al TPO di via Camillo Casarini 17/5 a Bologna, la BA Municipio Zero e TPO promuovono un incontro intitolato Oltre l'Umano. Ne parliamo con Christopher che è al telefono con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao a tutte e tutte. Oltre l'Umano, che cos'è? Oltre l'Umano, intanto è l'occasione per prendere parola e vi ringraziamo per questa possibilità, perché è una discussione complessa che va oltre le certezze che abbiamo nel presente attuale. È una discussione che nasce nei municipi sociali di Bologna, quindi TPO, la BA e Municipio Zero come, diciamo, server ibridato con queste realtà di lotta e di costruzione sociale, ed è una discussione che nasce di fronte ai limiti che abbiamo visto a partire dalla pandemia e poi con la guerra, con la crisi climatica in corso, per cercare delle nuove lenti per leggere quello che sta succedendo nel mondo, in Europa, intorno a noi. È, come dire, una discussione politica multidisciplinare. Esattamente, esattamente. Abbiamo iniziato un percorso in questi 2 anni di confronto con soggetti, realtà, diciamo, non convenzionali per questo tipo di delle realtà come le nostre, quindi ricercatori scientifici, tecnologici, c'è chi si occupa di ricerca nello spazio, c'è chi guarda le transizioni del corpo e a come queste cose si ibridano anche con le macchine, e questo lo abbiamo fatto perché ci siamo resi conto, soprattutto dalla pandemia, che la dimensione del digitale, ma anche quello che sta succedendo appunto fuori dalla Terra, nell'universo, impatta sempre di più nella costruzione del nostro ambiente comune in cui viviamo, e considerare il nostro ambiente solo come la Terra ci sembra riduttivo, e quindi avere un'idea di trasformazione possibile, questi sono i mattoncini minimi che ci servono per poter capire come sta andando il mondo e immaginare la trasformazione o la rivoluzione, insomma, viste la gravità poi di molte cose che succedono. Quindi sì, ci saranno diverse figure appunto non convenzionali anche nel nostro dibattito che solitamente siamo abituati a fare, e che ci aiuteranno a ricostruire appunto l'ambiente in cui viviamo e perché è così importante nelle trasformazioni che stiamo vivendo. Ti volevo chiedere appunto, visto che in un passaggio di questo evento scrivete che bisogna oltrepassare le interpretazioni ripetitive della realtà, non vanno bene, diciamo, come dire, le chiavi di lettura che abbiamo sono insufficienti? Questa, diciamo, considerazione la facciamo a partire da appunto un dato di non conoscenza completa di tutto quello che ci sta succedendo intorno, e quindi dare per scontati che certi fenomeni, parliamo della crisi climatica, delle trasformazioni che sta subendo la Terra, dei grandi cambiamenti in corso, che rispondano alle stesse regole di interpretazione che avevamo prima, è appunto un assunto che ci fa dire che bisogna superare queste certezze. E poi, insomma, a partire da questo lo vediamo nei cambiamenti storici che stiamo attraversando, vivendo. Faccio 2 esempi. Finché abbiamo pensato che il mondo stesse per finire perché c'è una distruzione ambientale, climatica enorme, e che questo fosse il principale meccanismo di cambiamento, ci siamo trovati anche in un senso di rassegnazione e di fine, diciamo, del mondo, che non ci ha fatto, diciamo, pensare a un possibile riscatto. Poi, quando questo aspetto qua di nuovo si è spostato sul campo della storia, della vita, delle società, guardando anche alla guerra che c'è in questo momento in Ucraina, e che comunque ritornano sempre interpretazioni quali, diciamo, il fatto che siamo in un mondo bipolare, che ci sono sempre le stesse prospettive, le stesse regole di ingaggio di ogni soggetto che si muove e di ogni potere che si muove nel mondo, appunto mettere in discussione alcune certezze che riguardano anche la nostra storia, è un po' quello che intendiamo anche con questa espressione qua. Come dicevamo, questo incontro si svolge su 2 giorni, sabato 1 ottobre, domenica 2, e raccontaci che cosa succederà un po' in queste giornate. Sì, allora, sabato pomeriggio dalle 16 guardiamo in avanti, cioè proviamo a sviluppare le basi per la costruzione di un nuovo pensiero materialista, e guardando ad un futuro e alle possibili anche utopie, e lo faremo in termini veramente molto multidisciplinari. Ci saranno Marcello Spagnuolo, che è un ingegnere aerospaziale, che ha scritto un libro, adesso sta per uscire con un altro libro su la guerra che avviene nello spazio e perché perché lo spazio è una nuova frontiera anche del capitalismo e legata a tutte le problematiche che ci portiamo dietro sulla terra. Ci saranno Cristian Marazzi, economista, con cui parleremo del comando finanziario e del nuovo meccanismo con cui diciamo ogni sistema nel mondo di fatto si adegua a questo tipo di formazione a modo suo, e del perché è sempre più urgente pensare a una via di fuga e una possibilità di cambiamento. Gianfranco Bettin, storico attivista dei movimenti ambientalisti italiani, Porpora Malcasciano, che conosciamo bene a Bologna, attivista trans e attualmente consigliera comunale per Coalizione Civica, e i Motus, compagnia teatrale che sullo sguardo diciamo culturale artistico ha sempre sviluppato diciamo forme che andassero oltre l'attuale l'esistente. Mentre domenica mattina ci sarà una discussione che guarda al nostro spazio politico in cui agiamo, che abbiamo identificato come l'euro-mediterraneo, come l'Europa, come lo spazio in cui siamo inseriti noi, che è composto da città, da territori, ma potenzialmente è uno spazio più ampio e appunto la guerra, quello che sta succedendo nell'Europa, ai confini dell'Europa, pensiamo alla Libia, all'Egitto, al Kurdistan, ci ha fatto pensare che dovessimo pensare anche a noi a cosa fare qua e come pensare di trasformare il nostro spazio politico comune, che va oltre la dinamica territoriale ma che può essere molto più grande. Per cui ci saranno due attiviste e giornaliste ucraine che saranno con noi qua a Bologna, ci sarà Davide Grasso, che è un ricercatore che è stato in Kurdistan diversi anni fa a combattere, ci sarà un attivista della gioventù internazionalista curda, ci sarà Lanfranco Camminiti, che è uno scrittore siciliano attivo nel tema dell'indipendenza siciliana ma con uno sguardo appunto rivolto all'Europa e in avanti, e saranno con noi diversi attivisti egiziani che in questo momento da un lato lottano diciamo per la possibilità di fuga dai paesi autoritari e dall'altro hanno anche un tema aperto, visto che ci sarà la COP27 in Egitto prossimamente, e anche con loro, soprattutto con loro, discuteremo appunto di questo tipo di prospettiva euro-mediterranea come possibilità di uno spazio politico comune per la rivoluzione, per il cambiamento di sovranità anche in questo vasto territorio. Chiudiamo la domenica pomeriggio con una discussione che è partita sul tema del reddito di cittadinanza, ritorna sul tema del reddito di cittadinanza perché nel frattempo abbiamo aspettato l'esito delle elezioni, tutta la due giorni l'abbiamo pensata prima insomma che cadesse il governo, sarà una discussione un po' che sta sul pezzo diciamo delle ultime novità dal punto di vista politico, elettorale in Italia, e insomma si colloca nello scenario attuale e ragionerà su cosa è successo e su come ci muoviamo, sempre guardando agli aspetti positivi e non solo diciamo all'elemento sicuramente desolante, terrificante di fronte a cui ci troviamo, ma agli aspetti di tendenza attraverso cui poter ribaltare il sistema e pensare a una possibile trasformazione. Certo, allora io ti ringrazio e ricordo che tutte le informazioni di Oltre l'Umano si trovano sul sito municipiozero.it/oltrelumano, quindi grazie mille e insomma buon lavoro. Grazie mille a voi e anche a voi altrettanto, e ci vediamo sabato, è un'occasione per vedere tutti questi ospiti insieme insomma.